sorrisi. La curva dei sorrisi. Accappanuvole, cosa farai da grande quando in un attimo il meglio se ne va? Sognare è facile, difficile è star sveglio. Io che non voglio te e tu che non mi vuoi. Adesso noi siamo meteore, divisi da sabbia fra le dita, lasciala scorrere.